Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario del dottor Seward, 3 ottobre. Siamo tornati con il cuore stretto a casa mia, dove ci aspettava la signora Harker, con un aspetto allegro che faceva onore al suo coraggio e al suo altruismo. Quando ha visto i nostri volti si è fatta pallida come una morta, e per un attimo o due ha chiuso gli occhi quasi in una segreta preghiera, poi ha detto in tono gaio: «Non potrò mai ringraziarvi tutti abbastanza, mio povero amore». Così dicendo ha preso la testa grigia di suo marito tra le mani e l'ha baciata. «Appoggia la tua povera testa qui e riposati. Tutto finirà bene, caro. Dio ci proteggerà se questo è il suo volere e il suo intento». Il poveretto si è limitato a rispondere con un lamento. Non c'erano parole capaci di esprimere la sua somma disperazione. «Abbiamo cenato insieme a una cena sbrigativa, ma credo che abbia giovato al nostro morale». Forse ad aiutarci è stato semplicemente il calore che il cibo dà alle persone affamate. Non avevamo mangiato più niente dopo la prima colazione, unito al piacere di essere in compagnia. In ogni modo ci siamo sentiti tutti meno infelici e abbiamo guardato al domani con qualche speranza. Fedeli alla nostra promessa, abbiamo raccontato alla signora Harker tutto quello che era successo. E sebbene lei diventasse di tanto in tanto bianca come la neve, quando sentiva che suo marito era stato minacciato dal pericolo, o arrossisse in altri momenti quando si manifestava la devozione di Jonathan per lei, è stata ad ascoltare con coraggio e con calma. Quando siamo arrivati al punto in cui Harker si era scagliato sul conte con tanta temerarietà, si è aggrappata al braccio di Jonathan e lo ha tenuto stretto, come se la sua pressione potesse difenderlo da qualsiasi male futuro. Tuttavia non ha pronunziato una parola fino al termine del racconto e alla spiegazione esauriente di ogni particolare. Poi, senza lasciare la mano del marito, si è alzata per parlare in mezzo a noi. «Potessi dare un'idea della scena, o di questa donna dolcissima e infinitamente buona, in tutta la radiosa bellezza della sua gioventù e del suo ardore, con quella cicatrice rossa sulla fronte, di cui essa era consapevole e la cui vista ci faceva fremere d'ira nel ricordo di come e perché si fosse prodotta, la sua tenera, affettuosa gentilezza, a paragone del nostro cupo odio, la sua soave fiducia a paragone di tutti i nostri timori e i nostri dubbi, mentre noi sapevamo che fin dove può arrivare il valore dei simboli. Essa, con tutta la sua bontà, la sua purezza e la sua fede, era respinta da Dio. Jonathan, ha detto. E l'appellativo suonava come musica sulle sue labbra, tanto era ricolmo d'amore e di tenerezza. «Jonathan, caro, e voi, tutti i miei veri, sincerissimi amici, c'è qualcosa che io voglio teniate a mente in questo periodo spaventoso. So che dovete combattere, che dovete distruggere, come avete distrutto la falsa Lucy perché la vera Lucy potesse vivere in eterno. Ma la vostra non può essere un'opera di odio. La povera anima che ha provocato tutte queste sofferenze è il caso più triste di tutti. Pensate a quale sarà la sua gioia quando anch'egli sarà annientato nella sua parte peggiore e la sua parte migliore potrà raggiungere l'immortalità spirituale. Anche di lui dovete avere pietà. Sebbene la pietà non deve impedirvi di distruggerlo». Mentre essa parlava, vedevo il volto di suo marito incupirsi e farsi teso, come se la passione che lo animava lo consumasse, riducendolo al nocciolo. Distinto, La stretta con cui teneva la mano di sua moglie si era forzata fino a sbiancargli le nocche, senza tentare di sottrarsi al dolore che certamente provava. Essa lo ha guardato con un'espressione più che mai supplichevole, e quando strappando la sua mano da quelle di lei ha esclamato: «Voglia Iddio metterlo nelle mie mani quel tanto che basta per distruggere la sua vita terrena come noi intendiamo fare. Ma se oltre a questo potessi mandare la sua anima a bruciare in eternità all'inferno, non esiterei un istante!» «Oh, taci, taci per l'amor di Dio, non dire di queste cose, Jonathan. Marito mio, mi farai morire di paura e di orrore. Pensa soltanto, mio caro, è tutto il giorno che questo pensiero mi tormenta, che forse un giorno potrei avere bisogno io di questa pietà, e qualche altro come te e con uguale motivo di odio potrebbe negarmela. Marito mio, avrei voluto risparmiarti un simile pensiero se ci fosse stato un altro modo. Ma io prego Dio di non tenere conto delle tue parole crudeli e di considerarle come il lamento del cuore infranto di un uomo pieno di tenerezza e folgorato dal dolore. Dio, fa che questi poveri capelli bianchi siano la testimonianza della sua tribolazione, la tribolazione di un uomo che in tutta la sua vita non ha mai fatto del male a nessuno e sul quale si sono abbattute tante sciagure. A questo punto, noi uomini eravamo tutti in lacrime. Non c'era modo di reprimerle e piangevamo tutti, apertamente. Diario fonografico del dottor Seward, dettato da Van Helsing. Questo per Jonathan Harker. Voi dovete stare con vostra cara Madame Mina. Noi andiamo a fare nostra ricerca, se posso chiamare essa così, perché non è ricerca, ma sicurezza, e noi cerchiamo solo conferma. Ma voi rimanete a prendere cura di lei oggi. Questo è vostro compito migliore e più santo. In questo giorno nessuno può trovare lui qui. Permette a me di dire a voi, così che voi sapete quello che noi quattro sappiamo già, perché io ho detto a loro. Lui, il nostro nemico, è andato via, è tornato indietro in suo castello di Transilvania. Io questo so così bene come se una grande mano di fuoco lo ha scritto sul muro. Lui era preparato a questo in qualche modo, e l'ultima cassa di terra era pronta in qualche posto per partire con nave. E perché lui ha preso il denaro, e perché aveva tanta fretta alla fine, aveva paura che noi lo prendevamo prima che cala il sole. Era la sua ultima speranza, salvo che poteva nascondersi nella tomba della povera Miss Lucy, perché lui crede che essa è come lui e gliela tiene aperta. Ma non c'era tempo. E quando questo non riesce, lui si precipita a sua ultima risorsa, suo ultimo terrapieno. Lui è intelligente, così intelligente. Sa che suo gioco qui è finito, e così decide di tornare in patria. Trova nave che fa la stessa rotta che lui è venuto, e in essa va. Noi adesso dobbiamo scoprire quale nave e dove diretta, e quando abbiamo scoperto torniamo indietro e diciamo a voi. Allora noi confortiamo voi e la povera cara Madame Mina con nuova speranza, perché c'è speranza se voi riflettete che non tutto è perduto. Questa creatura stessa, che noi gli diamo la caccia, ha impiegato centinaia di anni per arrivare fino a Londra. Eppure in un giorno solo, quando abbiamo conosciuto sue intenzioni, noi abbiamo mandato via lui. Lui è limitato, anche se ha potere, diverso da noi, di fare molto male, molta sofferenza. Ma noi siamo forti, ognuno fedele al nostro scopo, e siamo ancora più forti insieme. Prendete di nuovo cuore, caro marito di Madame Mina. Questa battaglia è appena che cominciata e alla fine noi vinceremo. Sono tanto sicuro come che Dio sta in alto del cielo a vegliare su suoi figli. Quindi state molto consolato finché noi torniamo. Van Helsing. Diario di Mina Harker. 5 ottobre, ore 5 pomeridiane. Rapporto sulla nostra riunione. Presenti professor Van Helsing, Lord Godalming, dottor Seward, signor Quincy Morris, Jonathan Harker, Mina Harker. Il dottor Van Helsing ha parlato dei passi fatti durante la giornata per scoprire in quale direzione e a bordo di quale nave fosse fuggito il conte Dracula. Siccome io sapevo che lui voleva tornare in Transilvania, era sicuro che doveva andare per foce del Danubio o da qualche parte del Mar Nero, perché era quella la via che era avvenuto. Davanti a noi era un vuoto deprimente, omne ignotum pro magnifico. E così con cuore pesante noi siamo partiti per cercare quali navi partivano per Mar Nero la notte scorsa. Lui era su nave a vela, perché Madame Mina parla di vele issate, velieri non così importanti da entrare in vostro elenco di partenze pubblicato su The Times, e allora, dietro suggerimento di Milord Godalming, siamo andati al vostro Lloyd's, dove è notato tutte le navi che partono, anche tanto piccole. Lì abbiamo scoperto che solo una nave diretta a Mar Nero è salpata con la marea, e questa è Zarina Caterina, e parte da Molo per Babana e altri posti, e risale Danubio. Ecco, ho detto, questa è nave dove è il conte. Allora siamo andati sul Molo Doolittle, e là abbiamo trovato un uomo in un ufficio di legno così tanto piccolo che l'uomo sembrava più grande di ufficio. Da lui abbiamo indagato su che rotta fa Zarina Caterina. L'uomo gridava con molte imprecazioni, faccia congestionata, ma lo stesso era una brava persona. E quando Quincy ha tirato fuori dalla sua tasca qualche cosa per dare a lui, che mentre la rotola frusciava, l'uomo è diventato ancora più brava persona, è nostro umile servitore. È venuto con noi, ha fatto domande a molti uomini che sono rozzi e violenti, ma anche loro più gentili quando non hanno più avuto sete. Essi hanno detto accidenti e maledizioni, altre cose che io non comprendo, ma posso immaginare cosa che vogliono dire, ma però hanno detto a noi tutte cose che volevamo sapere. Fra tutti hanno fatto conoscere a noi che ieri pomeriggio verso le 5 è arrivato un uomo di grande fretta, un uomo alto, magro e pallido, con naso aquilino e denti così bianchi e occhi che sembrano di fuoco, che lui è tutto vestito di nero, solo che aveva un cappello di paglia, e che non è adatto a lui né a stagione, che lui spende e spande suo denaro per fare rapida indagine su quale nave salpa per Mare Nero e per dove. Uno accompagna lui a ufficio e poi a nave, dove lui non vuole salire a bordo, ma si ferma sulla riva in fondo di passerella e domanda che capitano viene da lui. Capitano viene quando a lui è detto che sarà pagato bene, e anche se in principio tanto impreca, poi finisce che si accorda. Allora uomo magro va, e qualcuno dice a lui dove può noleggiare carro e cavallo, lui va là e presto torna guidando lui stesso carro, dove c'è una grande cassa che lui stesso la tira giù, ma occorre poi molti per caricarla su nave. Lui dice molti discorsi al capitano su come e dove deve essere messa sua cassa, ma al capitano questo non gli piace e grida che se vuole può andare a vedere lui stesso dove si mette cassa. Ma l'uomo dice no, che lui non viene adesso perché ha molto da fare. Allora il capitano gli dice che si sbriga in fretta, maledizione, perché sua nave parte da questo maledetto posto del cavolo prima che marea cala, accidenti. Qui l'uomo magro sorride e gli dice che naturalmente lui parte quando che crede bene, ma che sarà stupito se lui va via tanto presto. Capitano bestemmia, poliglotta. E l'uomo magro fa un inchino e ringrazia lui e dice che presto lui approfitta di sua gentilezza e viene a bordo prima della partenza. In finale il capitano, più rosso che mai, gli grida in tante lingue che lui non vuole francesi a bordo, accidenti, maledetti loro e maledizione anche alla sua nave. E così l'uomo, dopo che ha domandato se c'è vicino un'agenzia dove che può comperare carte d'imbarco, va via. Nessuno sapeva dove è andato e porco mondo, chi se ne fregava, come hanno detto loro, perché avevano altro da pensare e giù altre bestemmie, perché presto hanno capito tutti che la zarina Caterina non poteva partire come aspettato. Una leggera foschia cominciava a venire su dal fiume e sempre aumenta finché è molto fitta nebbia. Il capitano poliglotta, molto poliglotta, urla parolacce in tutte le lingue, ma non può fare niente. L'acqua saliva e saliva e lui cominciava a temere di perdere la sua marea. Non era certo di buon umore quando, in pieno di alta marea, l'uomo magro è venuto di nuovo sulla passerella a domandare di vedere dove è stivata la sua cassa. Il capitano allora gli ha risposto che sperava che lui e la sua cassa e giù imprecazioni andavano all'inferno. Ma l'uomo magro non si è offeso. È andato giù con il nostromo, ha visto dove era la cassa, poi è tornato su ed è stato un po' sul ponte, in mezzo alla nebbia. Deve essere andato via per conto suo, perché nessuno ha notato lui. In realtà nessuno gli badava, perché la nebbia ha cominciato presto a sciogliersi e di nuovo tutto torna limpido. I miei amici, quelli che avevano sete e un linguaggio tutto di parolacce, ridevano quando hanno raccontato che le bestemmie del capitano hanno superato perfino il suo solito poliglotto ed erano più di mai piene di pittoresco quando, domandato a altri marinai che andavano su e giù per il fiume a quell'ora, ha sentito che pochi di loro hanno visto nebbia, nessuna nebbia, ma solo che quella intorno al molo. La nave però è salpata con marea discendente e senza dubbio la mattina era molto in basso verso foce di fiume e quando essi hanno parlato a noi era già in alto mare. Quando il dottor Van Helsing ha terminato di parlare, gli ho chiesto se era sicuro che il conte fosse rimasto a bordo, ed egli mi ha risposto: «Di questo noi abbiamo la prova migliore. Vostra stessa testimonianza, quando in trance ipnotica questa mattina». Gli ho ripetuto la domanda se fosse veramente necessario che inseguissero il conte. Perché la partenza di Jonathan mi spaventa e so con certezza che se gli altri andassero egli si unirebbe a loro. Mi ha risposto con un'animazione sempre crescente. Aveva cominciato a parlare con calma, ma proseguendo si andava facendo sempre più appassionato, più irruente, tanto che alla fine abbiamo potuto capire tutti in che consistesse, almeno in parte, quell'ascendente personale che per tanto tempo aveva fatto di lui un maestro di uomini. «Sì, è necessario, necessario!» Necessario per voi, prima di tutto, e poi per il vantaggio di umanità. Questo mostro ha già fatto molto male nel campo ristretto dove si è trovato, e nel breve tempo, quando era ancora come un corpo che cercava, brancolando su così piccolo spazio, nel buio e senza sapere, Tutto questo io ho già detto agli altri, e voi, mia cara Madame Mina, lo imparerete da fonografo di mio amico John o in diario di vostro marito. A loro io ho detto che la sua impresa di lasciare sua terra deserta, deserta di uomini, e venire in un nuovo paese dove vita di uomini così abbonda che essi sono come moltitudine di grano ritto, è stata opera di secoli. Se c'era un altro non morto come lui che tentava di fare quello che ha fatto lui, forse non tutti i secoli del mondo che sono stati o che saranno potevano aiutare lui. Con questo qui, le forze di natura che sono occulte e profonde e forti devono avere lavorato insieme in qualche maniera prodigiosa. A questo punto il dottor Van Helsing ha fatto una sosta e io gli ho chiesto: ma il conte non accetterà con saggezza la sua sconfitta? Essendo stato costretto a lasciare l'Inghilterra, non la eviterà come la tigre evita il villaggio da cui è stata cacciata? Oh, ha esclamato egli, vostra similitudine della tigre è buona per me, io la adotto. Vostra mangiatrice di uomini, come in India chiamano la tigre che una volta ha assaggiato sangue di umano, non si cura più di altre prede, ma si aggira incessantemente finché non prende esso. Quello che noi cacciamo da nostro villaggio è una tigre, anche lui, un mangiatore di uomini e non smette mai di vagare in cerca di preda. No, lui stesso non è uno da ritirarsi e stare in disparte. In sua vita di vivente, lui passa la frontiera turca e attacca suo nemico in suo stesso terreno. È respinto indietro, ma forse che sta lontano? No, lui torna, torna ancora e ancora. Osservate sua resistenza e tenacia. Con il cervello infatigabile e suo, lui da molto tempo ha concepito l'idea di venire in una grande città e che cosa fa? Trova il posto di tutto il mondo che a lui promette di più. Poi deliberatamente comincia a preparare per suo compito. In grande pazienza scopre quale è sua forza e quanti sono i suoi poteri. Studia nuove lingue, impara nuova vita sociale, nuovo ambiente di antichi costumi, la politica, la legge, la finanza, la scienza, le abitudini di un nuovo paese e un nuovo popolo che sono venuti fuori quando lui già era. L'occhiata che lui ha dato solo aguzza il suo appetito e accende il suo desiderio. No, anzi, aiuta lui a crescere come cresce il suo cervello, perché dimostra a lui come aveva ragione fin da principio con sue supposizioni. Questo lui ha fatto da solo, tutto da solo, partendo da una tomba cadente in un paese dimenticato. Che cosa di più non può fare quando il mondo più grande di pensiero è a lui aperto, lui che di morte può sorridere come noi sappiamo, che può prosperare in mezzo di malattie che uccidono popolazioni intere. Oh, se uno così veniva da Dio invece che da demonio, quale forza di bene lui poteva essere in questo nostro vecchio mondo? Ma noi siamo impegnati di liberare il mondo. Nostra grande fatica deve essere in silenzio e i nostri sforzi tutti tenuti in segreto, perché in questa età illuminata, quando uomini non credono nemmeno quello che vedono, il dubbio di saggi può essere grandissima forza per lui. Può essere insieme sua corazza e sua armatura e sue armi per distruggere noi, suoi nemici, che siamo pronti a rischiare perfino nostre stesse anime per la salvezza di una che amiamo, per il bene di umanità e per onore e gloria di Dio. Dopo una discussione generale abbiamo stabilito di non prendere nessuna decisione definitiva questa notte. Abbiamo tutti bisogno di dormirci sopra e cercare di riflettere bene per arrivare alle giuste conclusioni. Ci dobbiamo incontrare di nuovo domani mattina per la prima colazione. Allora, dopo esserci comunicati le nostre idee, cercheremo di definire una certa linea d'azione.